Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera vi raccontiamo il caso di un comune virtuoso, il comune di Basiglio, in provincia di Milano, zona Milano 3 per intendersi. 8.000 anime, da anni ai vertici della classifica dei comuni virtuosi d'Italia stilata dal Ministero del Tesoro, e nel 2009, questo mi sembra un dato importante comunque da osservare, anche il comune col più alto reddito pro capite. Basiglio è stato tra i primi comuni a dare avvio a un processo di informatizzazione, non solo delle proprie procedure burocratiche interne, ma soprattutto ha sviluppato una serie di servizi online rivolti ai cittadini, di cui vi vogliamo parlare questa sera. E in linea con noi per farlo c'è il sindaco di Basiglio, Marco Flavio Cirillo, ormai prossimo per cronaca alla fine del secondo e ultimo mandato. Buonasera Cirillo. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, iniziamo da una fotografia dello stato attuale. Oggi che cosa possono fare via internet i basigliesi? Non so se si dice così, sì, è corretto? Sì, si dice così, esatto. E con corretto. Quali strumenti possono interagire informaticamente col comune? Ma col comune possono agire in remoto, quindi con un semplice computer, un portatile collegato un a sito, una rete, un desktop, piuttosto che con uno smartphone. Cosa possono fare? Vanno nel nostro portale e possono accedere all'interno a una serie di servizi online di varia natura. Di varia natura significa che ce ne sono anche tante informazioni, modulistiche e quant'altro, ma anche domande, ma anche pagamenti e regolarizzazioni di posizioni particolari. In particolare parliamo ovviamente della possibilità di pagare la refezione scolastica con innumerevoli strumenti, anzi modalità di accesso, come ho detto prima, ma anche il centro estivo, il preposto scuola, l'asilo nido. Prima si la TARSU, le multe. Ma dici, oggi non c'è più, c'è l'IMU, e siccome l'IMU va al tesoro, quindi va versata direttamente alle casse dello Stato, non possiamo, abbiamo perso questo, come dire, oltre ai soldi avete perso anche la possibilità di far pagare, di agevolare i cittadini, va no? Bene, e poi dicevo le multe, tante cose, guarda, la TARSU, l'area dei passi carai, insomma tantissimi servizi, ecco, è un'implementazione, è un work in progress. Voi avete un sito, avete fatto anche un'app che sì, per cellulare, insomma, esatto, per smartphone, che sta andando molto bene. Mi dice quali sono i numeri, quanti dei vostri cittadini utilizzano questo strumento anziché andare in comune o andare in posta? Oggi li posso dire che, fatto il totale delle transazioni che sono avvenute globali per il comune, per tutti questi pagamenti in generale, che delle piccole utenze o comunque dei concittadini, il 20% usa strumenti online. Online, d'accordo. Il 20% accede al comune attraverso il nostro portale, che tanto è molto ricco, ma anche, ripeto, scaricando, come ha detto prima lei, l'applicazione del comune di Basiglio su un iPhone, su un, certo, iPad, prossimamente su un Samsung, perché è un'altra forma. State insomma facendo per tutti i sistemi operativi, esatto, certo. E poi in particolare abbiamo un'applicazione dedicata proprio alla refezione scolastica, che fa la parte da Leone. Del Leone, ecco, e tra l'altro è anche da lì che comincia tutto alcuni anni fa. Ce lo vuole raccontare? Vero. Perché questo è un caso particolarmente interessante. Tra l'altro spiega anche l'utilità dell'app, perché uno per pagarsi la TARSU, insomma, forse non ha bisogno dell'app, lo deve fare una volta all'anno. Mentre controllare, seguire quello che mangia il figlio, per esempio, può essere un'attività anche quotidiana. Esatto. Come è nato, che cosa consente di fare? Siamo partiti da lì nel 2003, quando abbiamo ereditato un'amministrazione comunale, ma al di là dell'amministrazione, cioè proprio il servizio in generale mensa scadente, ma non della qualità, ma proprio perché la ditta era in fallimento, ancora obsoleto, si pagava col conto corrente, con il MAV, una situazione abbastanza disastrosa anche per le casse comunali, e diciamolo anche ai cittadini, perché questo sono flussi di entrata che consentono di sostenere anche un certo tipo di refezione scolastica, perché uno dei problemi più grandi è incassare spesso i soldi. Ma c'era, un 30% di elusione, evasione, esatto, chiamiamola come vogliamo, esatto, non tutta riconducibile, come dire, a povertà, no, ma anche magari a mancanza di tempo, insomma, esatto, uno non trovava il tempo di andare in posta. Esatto, lei sta dicendo le cose corrette, perché io penso sempre che la gente sia in buona fede, non ci credo che non voglia pagare, perché manca il tempo, perché le scadenze che abbiamo nella nostra testa sono tantissime e molteplici, perché siamo sempre in giro, quindi sapere che posso pagarlo, perché uno me lo ricorda, è già importante, magari ti mando un SMS, dice guarda che il tuo credito sta per esaurire. Ecco, allora andiamo con ordine, sindaco, però. Come funziona questo sistema? Uno riceve a casa la school card, si chiama così, sì, marchio registrato, che è l'unico esempio di marchi registrati pubblici, credo, in Italia, non ho idea. Non lo so. Detto questo, Arriva una tessera a casa, si chiama School Card, c'è un PIN e una password, la famiglia lo riceve, va sul portale del comune o oggi va anche su un tablet qualsiasi, inserisce i dati, si apre una pagina, c'è una nuova porta, possiamo dire così, all'interno c'è una serie di informazioni, anche le modalità di pagamento. Lì io vedo il menù di mio figlio, cosa sta mangiando questa settimana, questo mese, vedo tutte le notizie che dagli scioperi, purtroppo che ci sono ogni tanto, anche il resto, e in più faccio i pagamenti. Come faccio i pagamenti? Li faccio in prepagato, io ho una sorta di portafoglio elettronico. Io carico un credito sulla mia card, 50, 100 euro, che questo credito va a scalare, sì, e mano a mano arriverà poi alla fine ti arriva un SMS che dice: guarda, ricordati che devi ricaricare, e io ricarico con la modalità che l'ho detto prima. D'altro aspetto interessante questo, diciamo, cambiamento di paradigma. Normalmente, sì, come dire, l'amministrazione deve inseguire, farsi pagare. Esatto, questo sistema è virtuoso perché prima ti arrivava a casa un bollettino postale o eventualmente un MAV, tra l'altro con un costo complessivo del servizio, senza tener conto delle reali presenze o assenze di tuo figlio. Oggi invece no, il conto è esatto, tu lo puoi verificare, ma tu per primo carichi la tua card per evitare poi di essere inseguito. Ma è tuo interesse, oggi si è invertito completamente il sistema. Senta, mi faccia fare una domanda un po' cattivella, se vogliamo. Ma voi, prima di mettere in piedi tutta questa roba, avete verificato che non l'avesse già fatto qualcun altro? La risposta è sì. Abbiamo fatto una verifica ad ampio raggio, abbiamo visto che nessuno aveva un sistema così evoluto, e allora l'abbiamo realizzato mettendo insieme più soggetti competenti per questa, diciamo così, modalità di pagamento, ma anche di gestione del servizio intero. D'accordo, no, dico questa cosa perché è un fenomeno che si sta osservando in questa partita dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, delle smart city, è che molti comuni si stanno facendo i loro software senza preoccuparsi del fatto che magari esistono già, esatto, e il risultato è che se abbiamo 8.000 software diversi per 8.000 comuni italiani, di smart c'è molto poco, perché un domani, per esempio, far comunicare, diciamo, le banche dati fra loro diventa un'impresa assolutamente titanica. Esatto. Invece, se qualcuno volesse utilizzare il vostro di software, voi glielo date? Glielo mettete a disposizione? Pubblica, sì, gli insegniamo anche come si fa a gestire virtuosamente una mensa. Grazie Marco Flavio Cirillo, sindaco di Basiglio. Grazie, arrivederci a tutti. Per il momento ci fermiamo qui, appuntamento a domani.